parole in effetto, qua germo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato e solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire! E allora, a tutti gli amici, le amiche, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat, questa settimana vogliamo dare spazio a una questione assolutamente rilevante a Firenze, che è quella della mobilità e, nello specifico, le dichiarazioni e il lavorio continuo della Giunta Comunale Fiorentina, del PD guidato da Nardella, che propone e pensa di avviare un altro percorso tranviario e di trasporto tranviario a Firenze fino a Bagnarripoli, passando per i viali. Sicuramente un progetto ricco di criticità e di problemi che si aggiungerebbero a quelli già esistenti, e ne vogliamo parlare oggi con un compagno, con un attivista, con un analista che da anni segue le vicende della mobilità fiorentina, a partire proprio dal folle progetto di sottoattraversamento TAV, che è Alberto Ziparo, tra l'altro anche docente dell'Università di Firenze, che salutiamo e al quale diamo subito la parola perché ci racconti, ci esponga e ci parli di quello che appunto è il progetto della prossima e della futura linea tranviaria proposta dalla Giunta Comunale. Ciao Alberto. Ciao, buongiorno a tutti. Le analisi sulla tranvia fanno parte di una più complessiva analisi sulla mobilità fiorentina che svolgiamo da anni come gruppo di ricerca all'università che io coordino, in cui partecipano colleghi ricercatori ma anche molti tecnici, ingegneri, architetti, urbanisti esterni all'università ma esperti di cose locali, che spesso vengono veicolate da gruppi e comitati che stanno attenti a queste cose più che dalle amministrazioni che spesso proseguono in operazioni invece critiche che ormai hanno mostrato la corda, come appunto quello che citavi, il problema del sottoattraversamento TAV, che è stata la prima operazione di studio su cui si è formato questo gruppo di lavoro, che poi ha proseguito sulla mobilità fiorentina e oggi si occupa anche di tranvia con rapporti di ricerca, tesi, ricerca di dottorato, eccetera. E adesso parliamo soprattutto di tranvia e l'attualità, però nell'ambito di un discorso più generale sulla mobilità fiorentina. Ecco, quello che manca a Firenze come impostazione, ed è un vizio di fondo, è proprio il concetto di programmazione della mobilità nelle sue sfaccettature, nelle sue interezze. Firenze è una delle città più importanti del mondo, tant'è che il suo centro storico è patrimonio UNESCO, che è riconosciuto non solo dall'UNESCO ma da tante istanze internazionali ed è un riferimento per tutto il mondo. E questo comporterebbe appunto una grande valenza di una pianificazione che tiene conto della ricchezza culturale, artistica, ma anche di paesaggio urbano e anche di socialità che c'è a Firenze. Questa è invece una condizione che si continua a non registrare in generale nella pianificazione e soprattutto nella pianificazione della mobilità a Firenze. Possiamo dire che la mobilità a Firenze soffre di iperinfrastrutturalismo, cioè pretende di risolvere tutti i problemi attraverso alcuni grandi progetti, che non è il caso di una città appunto ricca e complessa e moderna e in continua evoluzione come quella di Firenze, come appunto Firenze. Possiamo dire questo, è un fatto che viene dal passato, perché nel quando si è costruito il grande sistema principale infrastrutturale nazionale, cioè quando c'è stata la rivoluzione della ferrovia e poi del mezzo su gomma, con strade e autostrade, Firenze ha giocato giustamente con il suo ruolo relativamente paricentrico rispetto alla penisola, cioè il suo ruolo chiave di qua dell'Appennino, una specie di crocevia tra chi arrivava dal nord, dalla Val Padana, e andava verso sud, andava verso Roma, Napoli, poi verso il sud, ha giocato questo ruolo realizzando grandi infrastrutture urbane e sovraurbane che si inserivano nel costruendo sistema infrastrutturale nazionale. E questo era comprensibile fino a un certo punto, finché poi la realtà urbana e metropolitana non è diventata così complessa, qui come in altre città contemporanee, metropoli contemporanee, da diventare un problema da trattare a sé. A quel punto, e parliamo degli anni 50 e 60, non bastava più ragionare in termini di infrastrutture urbane medio-grosse da inserire nel sistema di grandi infrastrutture nazionali per risolvere i problemi della mobilità di Firenze. Questa propensione a risolvere tutto in termini di grandi infrastrutture è proseguita anche quando tutti hanno capito, credo anche gli addetti ai lavori, che bisognava fare dell'altro, bisognava puntare sulla programmazione, che Firenze sostanzialmente invece non c'è mai stata. Perché è successo questo? È successo questo prima per una mancanza di dati tecnico-programmatici e di valenza culturale generale, per cui è proseguita l'inerzia della prima parte del secolo. Facciamo grandi infrastrutture urbane, ci colleghiamo alle grandi infrastrutture nazionali, abbiamo risolto il problema. E poi quando questa consapevolezza è venuta a meno, è stato chiaro che bisognava puntare su una programmazione della mobilità legata a una preoccupazione urbanistica e territoriale locale, però probabilmente sono emersi interessi che, come in tutto il settore delle infrastrutture e in buona parte delle opere pubbliche, spingevano per meno programmazione e più rilancio continuo di grandi progetti. È quello, è la stessa logica che nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, in tutta Europa e in Occidente, tende a privilegiare le grandi concentrazioni di capitale finanziario, interesse finanziario per loro nei grandi progetti, piuttosto che le pianificazioni diffuse, le pianificazioni complesse, che oggi sono sempre più attenti a quella grande questione che ci sta avvenendo velocemente addosso, che è la questione ambientale, e che quindi tendono a realizzare più, a giocare più sulla gestione di un sistema della mobilità urbana e metropolitana e a realizzare solo quelle opere che sono veramente necessarie. Questa logica qui a Firenze, anche se qualche volta è stata dichiarata, è stata decisamente abbandonata, tanto più quando nel nostro paese si è affermata definitivamente la logica dei grandi progetti, che non era più dovuta al fatto che l'Italia, come ancora dice chi non altro, che io strumentalmente, è sempre in forte ritardo infrastrutturale. Noi abbiamo scoperto drammaticamente l'estate scorsa, in seguito alla tragedia di Genova, sì, che abbiamo, ma chi ha studiato un po' il settore lo sapeva bene, come infrastrutture lineari, come rete autostradale e ferroviaria, abbiamo il rapporto lunghezza della rete abitanti più alto del mondo, sì, più alto tra tutte le regioni occidentali. Il nostro problema oggi è quello che gran parte di queste infrastrutture sono entrate in fase di maturità, come si è improvvisamente accorti dopo la tragedia di Genova. Certo. E quindi il grande problema oggi è mantenere questo grande patrimonio infrastrutturale, riammodernarlo più che pensare a nuove opere. Ma intanto che è successo qui come in altre parti dell'Occidente? Che l'economia è stata fagocitata dalla finanza ed anche la politica è stata spesso fagocitata dalla finanza. Quindi quando dagli anni 90 in poi era venuta avanti la consapevolezza che per il problema della mobilità a livello internazionale, nazionale, ma anche locale, a livello urbano e metropolitano, serviva la pianificazione. Però interessi hanno spinto per continuare a operare in termini di grandi progetti. Noi oggi assistiamo a un dibattito veramente grottesco sulla pretesa di rilancio delle grandi opere a livello nazionale, perché a livello fiorentino sono piuttosto indifendibili, soprattutto la TAP che è riuscito a spendere due volte l'appalto assegnato senza scavare un centimetro di galleria e con solo il 20% della stazione sotterranea. Quello è stato uno spettacolo di spreco di risorse pubbliche che non appare al mondo. Crediamo che quello sia veramente diventato un fatto indifendibile. Però noi assistiamo, per esempio, sul discorso della TAP nazionale, alla dimenticanza clamorosa che noi abbiamo dovuto cancellare come legge criminogena la legge che giustificava le grandi opere, la legge obiettivo, perché si era riconosciuto che era una legge che produceva soprattutto, oltre che corruzioni e spesso infiltrazioni della criminalità organizzata, ma anche e soprattutto sprechi economici ed ambientali. Abbiamo speso su 200 miliardi di euro circa negli scorsi 20 anni, 180 miliardi di euro, cioè il 90% in nuove opere, che sono sostanzialmente l'alta velocità più qualche autostrada, cioè la Firenze-Milano-Napoli, che doveva costare quando è nata 6 miliardi di euro, ne è costata 130 senza essere completata ancora nel tutto. Esempio il lodo di Firenze scoperto, altre parti sono scoperte. Abbiamo speso circa 200 miliardi di euro, di cui un terzo in opere che non sono mai partite, come il sottoattraversamento di Firenze, o che addirittura si è scoperto non potevano essere progettate perché non c'era la fattibilità sul progetto definitivo esecutivo, come il ponte sullo stretto, ma che peraltro hanno disseminato l'Italia, se non di cantieri appena aperti, aperti e chiusi, eccetera. Sono le opere della legge obiettivo. Oggi si dimentica tutto questo e c'è una parte di opinione pubblica che pretende di dire che la TAV Torino-Lione, per esempio, è irrinunciabile. Il discorso delle grandi opere è costituito un fallimento nazionale e a tutti i livelli. Come a Firenze abbiamo dovuto sperimentare direttamente, a tutti possono, basta ricostruire la storia del sottoattraversamento e poi inserire questo nelle inchieste che ci sono state, eccetera. Questo però modo di fare, questa, la potenza, che è stata anche una potenza politica, la concentrazione di capitali in alcuni progetti, è quello che ancora vizia il dibattito sulla infrastruttura, sulla pianificazione infrastrutturale nazionale. Ancora non c'è, nonostante ci sia anche nel programma contratto di questo governo, non si va verso un piano che è assolutamente necessario, il piano nazionale della mobilità e dei trasporti, e ancora si parla se dobbiamo o no fare questo o quel progetto che ha mostrato spesso la sua inutilità. Facciamo adesso una brevissima pausa musicale con Piombo a Tempo dall'album Cattivi Maestri, Mister Produttivo. Mr. c'è il suo lavoro e la vita lo affoga, ma lui pensa che comunque deve pur continuare. Troppa disoccupazione, troppe rate da pagare, seppellito sotto un mare di vacui fatti conto, schiacciato da un silenzio, di un rumore che è profondo. Lui non ce la fa più, ma deve pur vedere come deve mantenere il suo orticello di potere. Mister produttivo non si sente garantito, gli hanno fatto appena tu l'aveva solo dato il dito. Così pensa basta stronza, adesso chiamo il sindacato. È venuto il sindacato, ce l'ha inculato. Che la televisione riporta ogni giorno ogni sua dichiarazione. Mister produttivo sa stare sullo schermo, la voce calibrata e il sorriso fraterno, specie come giusto e necessario. Il licenziamento di 100 operai, la vita è dura, stando a fare sacrifici. Prendete esempio da due suoi amici, alti dirigenti ma una vita di stenti. Uno muore in galera di caffè corretto, l'altro resta soffocato con un sacchetto. Non devi lasciarci adesso, non fare lo stronzo che tira da solo la tua del cesso. Hai fatto la vita bella, c'è avuto piscine la villa, ma quando è cambiata la stella sei rimasto come un pirla. È stata tutta puffa, non ha un amico vero, però sei nella merda e ci sei per davvero. Pensaci bene che dura per tutti, anche i ricchi piangono e vestono a lutto. Sì, eccoci, rientriamo in voce, e per chi si fosse collegato adesso, chi ci avesse intercettato in onde medie, questa è Radio Wombat all'1359 per l'appunto in onde medie, e questo è lo spazio radiofonico della stampa rassegnata. Stiamo parlando questa settimana di mobilità e nello specifico di tranvia e infrastrutturazioni pesanti su Firenze con Alberto Ziparo, con il quale riprendiamo a parlare. Altra cosa importante da chiarire: i progetti, come ha dimostrato il sottosegretario di Firenze, non si fermano per i comitati, per la burocrazia, per l'amministrazione, per la lentezza, per la magistratura. La magistratura interviene quando si scopre che il progetto è fatto male, quando si scopre che non si sono fatte le valutazioni di impatto ambientale che si dovevano fare, oppure si sono fatte come rapporti giustificativi, quando si scopre che si stanno eseguendo lavori che non possono andare avanti. E questa è la storia del fallimento delle grandi opere. Adesso che cosa, andiamo all'attualità, al tram. Perché il tram ha tutti questi problemi a Firenze? Perché un'operazione pesante come la realizzazione di un sistema tramviario comportava, al cui tra l'altro tutti noi urbanisti, non solo quelli dell'università, all'inizio eravamo favorevoli, si diceva spostare, era un'urgenza per tutti spostare il traffico dalla gomma, cioè abbattere il traffico su gomma, soprattutto quello privato, e spostarlo su un altro mezzo che allora, 20 anni fa, era individuato sul ritorno del ferro anche sotto forma di strada. Però è assolutamente necessario che questo scaturisse correttamente, come altrove, da una pianificazione generale della mobilità urbana che guardasse anche a quella metropolitana. C'è un piano generale della mobilità urbana sostenibile che ora si è iniziato a fare più come operazione, negli ultimi mesi si è fatto il primo rapporto, però a leggerlo sembra più un'operazione fatta per le elezioni che non un'operazione reale, e soprattutto è un'operazione che tende a giustificare il vizio di fondo della mobilità fiorentina. cioè quello di pensare di risolvere la complessità del traffico in una città come Firenze con due, tre grandi progetti, che sostanzialmente a Firenze sono quelli su cui si convogliono gli interessi del settore delle costruzioni, di pezzi dell'industria, che soprattutto degli interessi della finanza che sorregge ormai questi settori, perché noi il dramma delle opere pubbliche, come dimostrano i fallimenti di alcune delle più grandi società, aziende nazionali di costruzioni, certo, è il fatto che sono in mano al sistema bancario e finanziario. E chi veramente beneficia di queste cose? Chi vende i soldi prima che quello che fa i lavori? E la legge obiettivo è stata chiusa, perché la legge obiettivo era una legge che nel meccanismo infernale, nell'alleanza infernale che avveniva tra il concessionario per conto dello Stato stesso, che era quello che doveva rappresentare gli interessi pubblici, ma era un soggetto privato, il general e le imprese, invece di esserci una dialettica programmatoria, si era creato un'alleanza che mirava solo a spendere più soldi possibile. Questo spiega perché i grandi progetti hanno sfondato nelle governance, si sono incardinati nelle governance, come nel caso di Firenze, e non si spostano da questa logica. Firenze oggi ci sono una competizione che Renzi, secondo me, ha cercato invano di fare su e di ricomporre tra tre grandi lobby, che sono la lobby quelle che stanno dietro la tramvia, quelle che sta oggi perdenti e ridimensionate dal fatto che è evidente che si erano imbarcati in operazioni indifendibili, che stavano dietro il blocco ferrovia e industria per fare il sottotraversamento, e quelle, gli ex costruttori di strade che oggi dovrebbero realizzare la seconda pista dell'aeroporto e che con un altro pezzo di Confindustria aspetta, l'industria, questo, tutte operazioni assolutamente strane. Per quanto riguarda la tramvia, sì. Andiamo alla tramvia. Il vizio non aver fatto un piano per la circolazione tramviaria e poi avere affidato una operazione così delicata come quella della progettazione di tram nella città di Firenze al costruttore. Il costruttore sapeva più o meno costruire l'oggetto, ma non sapeva nemmeno costruire il supporto, cioè progettare la rete il binario per il progetto, o in ogni caso il supporto per il progetto. Figuriamoci se faceva un'operazione di pianificazione, che doveva essere una pianificazione del sistema tramviario dentro il sistema della mobilità sostenibile. Non si è fatto questo, si è progettato per segmenti di rete che si sono faticosamente giustapposti e creando illusori benefici sulle direttrici che sono interessate dalle reti e scaricando su tutta la città, su tutto il resto delle direzioni, anche i problemi di mobilità, perché deve essere studiato un piano quando si fa una tramvia? Perché realizzando delle linee protette tu realizzi delle linee di forza in quelle direzioni. Ma se non hai un piano nel complessivo, scarichi i problemi su tutto il resto della rete. E che è quello che è successo a Firenze. Oggi quali sono le criticità? Che vediamo nelle parti realizzate, e tra l'altro erano state previste anni fa. Noi semplicemente con una tesi di laurea, mentre ancora dovevano partire i lavori della 2 e della 3, abbiamo messo in luce tutti i vizi che scaturivano da questa mancanza di pianificazione, che si sono puntualmente verificati, e proviamo adesso a ricordare. Punto primo, la tramvia di Firenze risponde in pieno all'esigenza di spendere il più soldi possibile, infatti è battuto il record mondiale, infatti, di costi. Consideriamo una cosa, oggi un ramo un chilometro di tramvia nuova costa mediamente in Europa 12 milioni di euro. Sì. Di euro. Cioè andiamo a 12 milioni al chilometro. A Firenze stiamo viaggiando a 38 milioni al chilometro. E non è finita. Più del triplo. la linea C della metropolitana di Roma, che sembrava uno sproposito quel pezzo che è stato fatto, perché c'erano talmente tanti ostacoli che anche quelli erano previsti, ma poi se ne sono venuti fuori gli imprevedibili. Roma è una città ancora più ricca di Firenze, perché c'è i giacimenti archeologici dell'antichità, non solo quello delle epoche medievali, finanze orientali, eccetera. Ha speso spese 20 milioni a chilometro. Qui andiamo a quasi il doppio di quello che sembrava un record mondiale. E nessuno chiede come mai stiamo spendendo tanto rispetto alle altre opzioni tranviarie. Secondo, se avessimo fatto la pianificazione, ci saremmo accorti che da 20 anni a questa parte c'è stata un'evoluzione terrificante del tram, che ha cominciato a viaggiare senza linee aeree, perché pesca l'elettricità da sotto. Poi addirittura, con l'avvento dell'elettrico, ha abolito anche il binario, cioè ha trasformato quello che si chiama Eco Blue Tram, che si usa in Francia, che si usa nel nord Europa, ma anche a Torino. Sono dei mezzi sgommati che viaggiano elettrici a batteria, a ricarica veloce, perché il problema fino a ieri della batteria sull'auto e sul mezzo pubblico, soprattutto sul mezzo pubblico, era che aveva bisogno di una ricarica, che era una ricarica lenta piuttosto continua. Ora sono i mezzi a ricarica veloce, che si ricaricano nei 20 secondi di fermata alla tratta, basta fare la colonnina, o mezzi ancora più buoni. Questi, la tranvia di oggi è una tranvia in cui la trincea, cioè la corsia protetta quando serve, non si realizza in anni di lavori, ma in ore di lavori che servono a montare elementi precompressi o semplici barriere architettoniche. Puoi realizzare nei pezzi in cui ti servono veramente e non altrove. Ti costano pochissimo e pochi lavori. Invece noi realizziamo delle cose costosissime, impegnando coi cantieri delle arterie importanti per la città, che hanno comportato disagi alla popolazione, disagi al traffico. In questi anni, con la costruzione della 2 e della 3, abbiamo cancellato migliaia di linee, di corse di autobus, di TPL. Per dire una cosa, la zona dove sto io, la zona di Savonarola, e siccome noi il corso di laurea l'abbiamo a Empoli, io quasi tutti i giorni vado da Savonarola a Santa Maria Novella per prendere il treno per Empoli. Una volta avevi bisogno di 20 minuti di sicurezza per arrivare a prendere il treno da Savonarola. Ora è pure ben servita, perché ci sono alcune delle vie principali che vanno da Savonarola a Santa Maria Novella. Adesso questo tempo è raddoppiato. Eh sì. Ma e questo succede in tantissime direzioni. Eh sì. A parte i giorni in cui si fermano, sono una congestione incredibile. I cantieri impegnano la città, come sarebbe anche per la nuova linea, e viali decisivi per il traffico. Aree commerciali importanti che sono andate in crisi, i negozi hanno chiuso mentre c'erano i cantieri della 2 e della 3. C'è uno strumento per stabilire prima qual è l'impatto dei cantieri, che è importantissimo nel caso di Italia, che non è la VAS fatta pure male a maglie larghe nel caso della 2 e della 3, cioè la valutazione ambientale strategica. Lì serve la valutazione di impatto ambientale proprio prima del cantiere e poi dell'esercizio. Con la linea 1 si era andati in deroga, dicendo che era una deroga eccezionale, perché era il lavoro, bisognava farlo velocemente. Questa deroga è diventata eterna, cioè non si fa la valutazione di impatto ambientale, non si sa prima da cui dovrebbe scaturire, sapere se il cantiere è sostenibile dalla città, e se è sostenibile dovrebbe scaturire un piano di cantiere, che, come si è visto nella 2 e nella 3, non esisteva, e si è andata all'improvvisazione quotidiana, con ordini di servizio che variavano ad horas, e ancora continua così per la conclusione della linea 2. Questo è stato un altro problema molto grosso. Non fare le vie non ci ha detto quali erano i problemi di impatto sulla città e soprattutto i problemi di impatto del cantiere. Non ci ha detto poi qual era l'impatto paesaggistico. L'impatto paesaggistico è una cosa gravissima di cui si è lamentata anche l'UNESCO, sì. Per il caso di Firenze. C'è un esempio che è eloquente. Giovanni Michelucci, che ha progettato la nuova Santa Maria Novella, negli anni 30, prima di mettere un lapis sulla matita, ha studiato quel contesto per oltre un anno e mezzo, insieme a tutta l'urbanistica fiorentina, che lui pure conosceva come le sue tasche, e poi ha cominciato a profilare l'insediamento della stazione con i profili, le sezioni, eccetera. Noi abbiamo riempito Piazza Santa Maria Novella di pali neri, stravolgendone il paesaggio. Di questo e come di altri luoghi cospicui della Firenze mondiale, della Firenze patrimonio universale dell'umanità, con delle, probabilmente degli schemi realizzati, disegnati da non so chi, o forse da un computer anonimo, che ci ha riempito queste realtà di pali, di questi pali neri incredibili, che sono stati quelli sanzionati e stigmatizzati dall'UNESCO. Siamo di fronte a un paesaggio urbano importantissimo, anche per questo va fatta la via. Poi c'è l'impatto sugli istituti commerciali, eccetera. Ma la cosa principale poi è che è il fatto che è migliorato il trasporto, noi misuriamo in termini di incremento della gente che prende il tram, il presunto miglioramento del trasporto. È appunto presunto. Dal punto certo. di vista della funzionalità del sistema, il sistema è peggiorato, nel senso che noi abbiamo scaricato sulle altre direzioni il presunto miglioramento del traffico sulle direttrici che sono interessate, prima dalla 1, oggi anche dalla 3 e poi forse dalla 2. Tutto il resto del sistema paga questo, col fatto che Firenze ha bisogno di chiudere tutte le maglie. La tranvia realizzata così risolve alcune direttrici, ma lascia alcune aree della città completamente in bagliare il traffico. E allora qual è il futuro? Perché noi cosa diciamo da tempo? La prima che lo dicesse, anche l'abbiamo ripetuto insieme anche a Miriam Amato, di Potere al Popolo, ma questo gruppo lo dice da tempo, abbiamo detto fermatevi. In questo primo rapporto preliminare del PUMS, del piano urbano di mobilità sostenibile, se fosse una cosa seria, c'è quello che sta succedendo massicciamente nella pianificazione della mobilità urbana in tutte le città europee, cioè il massiccio ricorso all'elettrico. C'è, solo che c'è con due capitoli diversi. Da una parte ci sono le grandi scelte che non si discutono, cioè ancora c'è solo un passaggio che rende più critico la fattibilità della TAV, ma sostanzialmente è confermata la TAV, è confermato i collegamenti con l'aeroporto che va ampliato nella seconda pista, è confermato soprattutto, così com'era, il sistema tranviario, tutto da realizzare con una tecnologia vecchia, costosissima e impattante che abbiamo visto fino ad ora. Quindi realizzare i prolungamenti della 3, ma anche la 4, la 5, sono tutti previsti là. Da un'altra parte, per questioni molto più marginali, si parla di elettrico, la penetrazione dell'elettrico che già avviene con tutto l'infomobility che sta avendo delle evoluzioni significative, cioè tutta l'informazione, e avviene soprattutto per l'uso di alcuni che sono già in commercio a Firenze, si usano già, all'acquisizione di alcuni pulmini elettrici con batteria di carica veloce per andare nei vicoli, nelle strade più piccole, meno agevoli del centro storico. È un uso marginale. Invece bisogna fare un uso strutturale dell'elettrico. Noi abbiamo già detto, fermiamoci e valutiamo se non è il caso di abbandonare questa tecnologia. Tra l'altro si è detto, se si abbandona questa tecnologia l'Unione Europea non ci finanzia più, non c'è scritto in nessun bando europeo che il finanziamento è legato alla tecnologia. piuttosto, se si abbandona sulla tecnologia, si abbandona un modello di spesa che vuol dire modello di relazione con determinati soggetti. Probabilmente, come hanno scritto nelle inchieste della magistratura, la programmazione della mobilità e dei lavori pubblici sono saltati perché c'erano degli accordi che non c'entravano niente con la politica di piano, ed erano i magistrati, li hanno chiamati accordi diabolici, sono quelli che hanno viziato, hanno messo in crisi la legge obiettivo, nella stessa logica probabilmente che impedisce di fare scelte diverse. Addirittura comportandoci, come ha scritto giustamente, come ha detto giustamente Miriam e gli altri, comportandoci come Berlusconi quando stava perdendo il governo nel 2005, e ha dato il via alla fase esecutiva di tutta una serie di opere che ci siamo ritrovati come cantieri mai partiti o incompiute e che oggi degradano il panorama italiano oltre che il sistema infrastrutturale italiano. Senta, la stessa logica si potrebbe fare ora. Invece di fermarci e riflettere sulle criticità che sono sotto gli occhi di tutti e sono amplissime, c'è solo una certa complicità dell'opinione pubblica, se non dell'opinione mediatica, cioè dei media, perché se no non si spiega come che nessuno ancora ha sollevato il problema evidentissimo dei costi del tranvia a Firenze, costa del triplo di quanto costa mediamente in Europa. Sì, bravissima. Per esempio, oltre a tutte le altre cose che abbiamo detto. Senza ombra di dubbio, gravissima. E senti Alberto, volevo chiederti a beneficio degli ascoltatori e delle ascoltatrici, che proprio come dici, purtroppo subiscono e subiamo tutti lo storytelling continuo dei giornali fatto in modo assolutamente dipendente dalla politica, e quindi tutto funziona perché deve funzionare, è una tautologia continua. Ma il futuro progetto, che quindi si dovrebbe attraversare i viali con abbattimento alberi e arrivare a Bagnaripoli, ce lo puoi un po', diciamo, descrivere? Quale sarebbe il tracciato che propongono e a che scopo soprattutto? Ma il tracciato che propongono è appunto, investe alcuni dei viali principali per collegare col Bagnaripoli. Ora, tutti diciamo il collegamento con Bagnaripoli è una cosa interessante, ma si può ottenere con un'altra tecnologia che non ha questo, non devasta questo. Ma noi li abbiamo in passato, li abbiamo studiati, abbiamo detto volete continuare a provare, fate la valutazione di impatto ambientale con due alternative. Dobbiamo andare dal centro Bagnaripoli. Proviamo che facciamo una valutazione di impatto ambientale, tra l'altro per avere le alternative. Andiamoci, opzione A, quella che sul campo, che quindi agli impatti che dici tu, si abbattono alberi, si chiudono pedane di mobilità, per cui alcune linee dovranno passare da un'altra parte, si rende disagevole in alcuni pezzi che verranno attraversati di città la vita quotidiana e soprattutto si rende disagevole l'esercizio commerciale, come abbiamo già visto, eccetera. Si devono realizzare, sono previsti dei parcheggi che sono assolutamente eccessivi e concentrati in una determinata zona. Ebbene, noi abbiamo detto confrontate questa opzione con la realizzazione di un collegamento elettrico su corsia protetta da non realizzare in tutta la sede stradale. No, in tutto il segmento di linea, in tutta la linea, ma veramente laddove serve, perché dove c'è meno congestione si può andare anche in corsia semplicemente riservata, e soprattutto valutate l'impatto dei cantieri delle due diverse opzioni. Con la prima opzione, quella che è in campo, noi dobbiamo bloccare, come abbiamo già visto per la 2 e per la 3, per mesi e forse per anni alcuni pezzi di città. A restringerli o addirittura bloccarli, renderli inagibili al traffico e delle volte anche al traffico pedonale, perché non si passava nemmeno, bisognava fare proprio un giro anche delle ultime. Sì, abbiamo visto anche. Siamo trovati in queste condizioni, cioè delle barriere che sono durate mesi anche per i pedoni. Da una parte abbiamo questo, e bisognerebbe fare la via per sapere intanto gli impatti di questo, confrontatela con l'altra opzione, cioè il mezzo. Tra l'altro l'acquisizione di mezzi elettrici, si tratta solo di fare questo, sono già in commercio, ne puoi acquisire moduli di dimensioni diverse, per cui tu in determinate ore usi il vettore più grande, ti porta 180 persone. Quando non ti serve questo, usi quelli più piccoli, sgravando anche quei pezzi di traffico, non vanno in corsia protetta dalla congestione. E allora questa è l'operazione da fare, fermiamoci e quantomeno confrontiamo le due opzioni. E scusa Alberto, giustamente ci hai dato... Nel dettaglio, la valutazione di impatto ambientale in ogni caso ci dice che loro evitano. Proprio per evitare di dire prima quali saranno i disagi del cantiere. E quindi scusami, ora loro vorrebbero... Però questo è un atteggiamento oggi colpevole di prima, perché abbiamo avuto l'esempio della 2 e della 3 dei disagi che hanno comportato, quindi sappiamo quello che comporta. C'era un dicendo: se noi rallentiamo il progetto si perde il finanziamento, ma non è vero, perché si deve una pausa, non sto cambiando l'idea di abbandonare il progetto, sto cercando solo di ottimizzare la tecnologia, la funzione rispetto agli impatti che c'è. È il ricatto continuo, insomma, lo vediamo su tutto. No, ma io credo, studiando questa questione, è un fatto che ritorna. Purtroppo, perché si stenta tanto a abbandonare un'opera quando è evidente che funziona? Il sottotraversamento è sintomatico. È servito come canna dal gas per due grandi imprese in fallimento. La prima, abbiamo regalato centinaia di milioni di euro a COPSET per evitare il fallimento, è fallita lo stesso. E con chi l'abbiamo sostituito con una procedura tra l'altro regolare? Con un'altra impresa delle queste grandi che monopolizzavano gli appalti della legge obiettivo, condotte che però era fallente a sua volta. E allora ti viene il dubbio che la funzione di questo attraversamento non era quello di realizzarsi, ma quello di trasferire risorse nel tentativo di evitare fallimenti di queste cose. Però il problema di tutto che ha portato alla chiusura della legge obiettiva è quello che troviamo anche nella tranvia. Si volevano perpetuare anche oltre ogni soglia di accettabilità un modello di spesa, perché era un modello di relazione con alcuni soggetti, e probabilmente è quello che vizia oggi le scelte della tranvia, il fatto che non solo non ci vogliamo fermare, ma vogliamo mettere il carro davanti ai buoi per eventuali cambi di amministrazione. Cioè una nuova amministrazione si deve trovare i contratti già fatti con lo stesso. Certo, condizionare anche il futuro. Questo qui è esattamente quello che abbiamo criticato tutti in Berlusconi nel 2005. Sta accadendo il governo e tu lanci le fasi esecutiva di decine di progetti che poi sono rimasti quasi tutti non sono mai partiti, sono quelle incompiute che vediamo passando, che rovinano il bagaggio italiano. Oltre che sprecare un sacco di soldi, facciamo la stessa cosa. Invece ci sono tutte le condizioni per dire: fermiamoci, se vogliamo veramente ricordarci che la politica dovrebbe essere anche corretta programmazione, ed è che è diventata urgente nell'urbanistica e nella mobilità fiorentina fare questo. Sì. E senti Alberto, in chiusura, visto che il tempo a nostra disposizione purtroppo va scadendo, cosa pensi? I fiorentini, dopo quello che hanno passato con le linee già realizzate e che di fatto non hanno risolto, ma anzi esteso e allargato e scaricato sul resto della città i problemi di traffico, della mobilità privata, su questa prossima proposta di linea ci saranno dei sussulti, ci saranno dei tentativi? Ma io credo che ci sono comitati di abitanti, le associazioni ambientaliste, i comitati che sono nati proprio sul discorso della mobilità, come importantissimo. Il comitato Notav è stato decisivo nel veicolare, nell'amplificare gli studi all'università, che se no restano tra tutti i lavori. Quasi nessuno legge, invece il ruolo dei comitati è importante per amplificare queste cose. Io credo che oggi stiamo registrando proprio per questo vizio che ormai è penetrato nel settore e diventa difficile da sradicare, nel settore delle grandi opere, nel settore delle infrastrutture, che è questo peso eccessivo della finanza, degli interessi finanziari ed economici rispetto anche alle scelte di governanza. Noi crediamo che la vera pianificazione, programmazione corretta debba venire dal basso, quindi è importantissimo che questi gruppi di abitanti, di persone sensibili all'ambiente, di persone sensibili a Firenze, poi si amano Firenze, si organizzino e si facciano sentire e indirizzino le scelte dell'amministrazione, considerando che poi tutti dovrebbero dire siamo a un cambio di amministrazione, è l'occasione più naturale, più ovvia di fermarsi, riflettere sugli errori del passato per non ripeterli, a meno che l'operazione non è un'operazione anche complessivamente iniziata. E quindi è importantissimo il ruolo degli abitanti e delle associazioni, dei gruppi, dei movimenti. E perché io penso che una programmazione corretta nel prossimo futuro viene da là, soprattutto. Eh sì, siamo assolutamente convinti come te che sia dal basso che dobbiamo prendere la voce, la forza e lì sì, lavorare, insomma, perché cambio di direzione può fare. Queste cose si registra una reiterata crisi della politica che non si risolve, anche quello che poteva sembrare nuovo delle volte, volte. Poi è il passato servito su un vassoio nuovo. Ma in un blef, io mi auguro che almeno per quanto riguarda le mobilità, le 5 Stelle, che sono al governo nazionale, difendano almeno le cose, le scelte più importanti. Diciamo, almeno. Perché a loro bastava restare nel programma, era un ottimo programma loro, perché avevano preso il programma degli ambientalisti. Bastava difendere quel programma e sarebbe già stato, almeno in questi settori sarebbe stata una svolta innovativa importante. Invece mi pare che fino adesso mi pare che, insomma, che è sempre dal basso che deve sorgere continuamente. E quindi niente, insomma, teniamoci ovviamente aperta la possibilità di risentirci in futuro, di aggiornarci sugli sviluppi, eventuali iniziative rispetto a questa. Ma abbiamo chiuso il rapporto ora sulla mobilità generale, sulla tranvia, dove ci sono anche queste cose. Appena lo diventa pubblico, presenteremo quella sera. Bene. E non mancheremo anche come Radio Wombat di fare la nostra parte nell'amplificare e veicolare queste importanti riflessioni che vanno in controtendenza rispetto all'affarismo che caratterizza la politica e l'imprenditoria di questa città. E Alberto, un grande saluto, un abbraccio e a risentirci presto, quindi. Ok, grazie a voi per lo spazio che ci date e buon lavoro. Scherzi. A presto. Bene, a prestissimo, ciao. Ciao.